Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. So bene che le sentenze vanno contrastate nelle sedi proprie, giurisdizionali, non vanno commentate, vanno rispettate. Detto questo, mi chiedo che figura fa il nostro paese di fronte al resto del mondo. Naturalmente adesso ci sarà immediatamente l'impugnativa al Consiglio di Stato, l'appello al Consiglio di Stato, la richiesta di sospensiva, vedremo. Ma quello che mi preoccupa di più è che una cosa per cui l'Italia si è fatta apprezzare in tutto il mondo venga messa in discussione. Peraltro ci sono anche delle conseguenze pratiche, perché la sentenza è già pubblicata e quindi da oggi 5 importanti musei sono senza direttore. Lo avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, decisamente contrariato il ministro per i beni culturali Franceschini a proposito di questa decisione del TAR del Lazio di annullare una serie di nomine, 5 nomine di direttori di altrettanti super musei italiani, quindi tra i più importanti, soprattutto perché stranieri, perché il bando non doveva essere aperto agli stranieri. Quindi si è aperta una grossa polemica su questo aspetto. Mi piacerebbe sapere anche la vostra opinione, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666, numero per WhatsApp ed SMS. Sapete che per interagire con Effetto Notte avete questi due canali privilegiati. Parleremo quindi di questo e sarà ospite qui di Effetto Notte il direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze, che è Heike Schmidt, che è tedesco. E vediamo se anche lui si sente un po' in pericolo, a rischio, dopo questa decisione del TAR del Lazio, e cosa ne pensa anche. Ci occuperemo poi e molte altre cose, aggiornamenti sulla strage di Manchester. Poi c'è stato un attentato in Grecia, ad Atene, che ha colpito un ex primo ministro, e poi ci sarà parleremo di Laura Biagiotti, perché sembra purtroppo che dopo un malore sia in fin di vita in un ospedale di Roma. E poi un ricordo di Giovanni Bignami, grande astrofisico, grandissimo divulgatore, che è stato più volte qui ospite Effetto Notte, e sentiremo un ricordo di lui che se n'è andato improvvisamente. Adesso, prima di approfondire tutti questi temi con gli ospiti, mentre voi formulate i vostri messaggi, i vostri commenti, riassunto della giornata. La strage di Manchester, l'ira della prima ministra britannica May verso gli Stati Uniti per la fuga di notizie, e si apprende che il kamikaze prima dell'attentato aveva telefonato alla madre dicendo perdonami. Grecia, esplosione in auto ad Atene, grave l'ex ministro Papademos, al momento nessuna rivendicazione. Taormina, domani al via il G7, approntate imponenti misure di sicurezza. Musei, il TAR del Lazio annulla 5 nomine, no ai direttori stranieri. Il ministro Franceschini commenta: una figuraccia davanti al mondo. E a Effetto Notte sarà ospite Heike Schmidt, direttore tedesco degli Uffizi. L'inarrestabile violenza contro le donne: nel milanese un uomo per strada spara la testa dell'ex convivente e poi tenta il suicidio, gravissimi entrambi. Politica verso il primo stop ai vitalizi per i parlamentari. Moda, Laura Biagiotti in fin di vita dopo un arresto cardiaco, ricoverata a Roma. Addio a Giovanni Bignami, astrofisico e grande divulgatore. Sport, Giro d'Italia, nel tappone dolomitico vince lo statunitense Van Garden, la maglia rosa De Moulin consolida il primato. Partiamo quindi dagli aggiornamenti sulla strage di Manchester, perché è in atto uno scontro sulla fuga di notizie dell'inchiesta per la strage. Questo scontro tra Gran Bretagna e Stati Uniti. La polizia britannica ha quindi interrotto la comunicazione delle informazioni sull'attentato ai colleghi americani dopo la pubblicazione delle indagini da parte della stampa statunitense. La prima ministra britannica Theresa May ha detto a Trump: i dossier dei servizi devono essere segreti, intanto si ricordano le vittime. Un minuto di silenzio in tutta la nazione per le 22 persone che hanno perso la vita nell'attentato terroristico all'Arena di Manchester e la regina Elisabetta in visita ai feriti. Intanto le indagini di Scotland Yard procedono con 8 uomini in carcere che, secondo la polizia, sono significativi nella caccia alla rete terroristica dietro agli attentati di lunedì scorso. Il livello di allerta resta critico, ha ribadito oggi Theresa May, invitando la popolazione ad essere vigile. Il primo ministro, domani in Sicilia per il G7, sta cercando collaborazione contro il terrorismo anche con la NATO, nel meeting di oggi a Bruxelles, dove, dopo aver sospeso lo scambio di intelligence con gli Stati Uniti, ha intimato a Donald Trump di mantenere riservati i dossier sulle indagini, come le foto dei resti dello zaino bomba del terrorista trapelate sul New York Times. Intelligence that is shared between our law enforcement agencies must remain secure. Le indagini si allargano fuori dal regno dopo che è emerso che l'attentatore Salman Abedi, già segnalato 5 volte alle autorità per i suoi comportamenti estremisti, era transitato da Düsseldorf 4 giorni prima dell'attentato, probabilmente di ritorno dalla Libia, dove il padre ed il fratello sono stati arrestati per legami con estremisti islamici. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. E si apprende che il kamikaze, autore della strage, prima dell'attentato avrebbe telefonato alla madre dicendo perdonami, e citando fonti americane la CNN afferma che con tutta probabilità Salman Abedi avrebbe ricevuto addestramento dall'ISIS in Siria nei mesi precedenti all'attacco. Intanto la NATO annuncia la sua partecipazione alla coalizione contro l'ISIS. L'attentato cruento che ha colpito Manchester ha indotto oggi la NATO ad annunciare la sua piena partecipazione alla coalizione internazionale contro lo Stato Islamico. La decisione è giunta qui a Bruxelles, dove i 28 paesi membri dell'Alleanza Atlantica hanno inaugurato la nuova sede dell'organizzazione militare. Il segretario generale Jens Stoltenberg ha annunciato che verrà creata la figura di coordinatore antiterrorismo, così come una divisione della NATO tutta dedicata alla condivisione dell'intelligence. La decisione di affidare nuovi compiti antiterrorismo all'organizzazione militare è giunta su pressione degli Stati Uniti in un contesto internazionale molto delicato. Proprio il presidente americano Donald Trump ne ha approfittato per chiedere nuovamente agli europei di spendere di più in attrezzatura militare, lamentandosi senza mezze parole e pubblicamente dei ritardi cronici dei paesi europei in questo campo. Dietro all'unità tra i 28 paesi dell'alleanza sono apparse oggi non poche crepe. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E ora in Grecia, dove un pacco bomba è esploso in un'auto con a bordo l'ex primo ministro Loukas Papademos, che è rimasto ferito insieme ad altre due persone, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'esplosione dell'ordigno che ha ferito al petto il 69enne ex primo ministro è avvenuta nel centro di Atene. Papademos è stato già vicepresidente della Banca Centrale Europea e attualmente docente ad Harvard. Non ci sarebbe al momento nessuna rivendicazione, però poi cerchiamo di capire meglio. Torniamo sul tema tra poco. Il G7 di Taormina, la cittadina siciliana pronta per il vertice, è stata trasformata in una fortezza dove domani nel pomeriggio arriveranno i 7 capi di Stato e di governo, in un clima reso naturalmente particolarmente teso dall'attentato di Manchester e dalle tragedie dei migranti. Gli ultimi saranno ad arrivare il presidente americano Donald Trump, che arriverà da Bruxelles, e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Quindi Sergio Nava, il nostro inviato. Ciao Sergio. Ciao Roberta. Dicevo, misure di sicurezza imponenti, e poi quali saranno i temi principali sul tavolo, come si dice? Sì, l'ho anticipato tu, le misure di sicurezza veramente imponenti, perché a Taormina entrano di fatto solo i residenti e tutti coloro, parliamo di delegazioni che dovranno partecipare al vertice, quindi diciamo solo chi può tecnicamente essere presente al vertice. Noi stessi giornalisti siamo qui a Giardini Naxos, quindi qualche chilometro più giù rispetto a Taormina. I temi, chiaramente il terrorismo dopo l'attentato di Manchester è diventato il primo tema e anche tra virgolette quello più facile, anche perché è prevista una dichiarazione dei 7 leader staccata dal comunicato finale, che dovrà ribadire un impegno comune contro il terrorismo. Più difficile invece sarà la questione immigrazione, anche se il fatto che l'attentatore di Manchester era libico, aveva forti connessioni con la Libia, potrebbe aiutare Gentiloni a mettere il tema Libia e il tema anche Libia come base di partenza degli immigrati, della crisi migratoria al centro dell'agenda. E qui però potrebbero esserci delle diversità di vedute. L'Italia vuole un piano più globale sull'immigrazione, che comprende anche gli aiuti ai paesi di origine e di transito, mentre l'America ha un atteggiamento molto più legato alla sicurezza. E poi altri due scogli importanti che ci sono il clima. Qui l'America ancora non ha detto cosa intende fare per quanto riguarda gli accordi di Parigi, se stracciarli o no, e anche il libero commercio. Insomma, l'America di Donald Trump ha un'indole molto più protezionista, l'Europa punta a tenere aperto il libero commercio, i canali del libero commercio. Qui bisogna dire, per riassumere, che ci si aspetta un G7 un po' anomalo, soprattutto per la presidenza di Trump, e poi non dimentichiamo che anche il primo G7 di Macron per me e di Paolo Gentiloni, quindi sicuramente un G7 potrebbe riservare qualche sorpresa. E quindi domani ci collegheremo di nuovo con Taormina. Grazie Sergio Nava. Ciao Sergio e buon lavoro. E così arriviamo alla polemica che riguarda alcuni musei italiani. Il TAR del Lazio annulla la nomina di 5 direttori e il ministro Franceschini, l'avete sentito all'inizio, parla di figuraccia. Era uno dei fiori all'occhiello del governo Renzi. La pronuncia del TAR del Lazio ora mina alle fondamenta la riforma dei musei. Accogliendo il ricorso di due candidati esclusi, i giudici giudici amministrativi hanno bocciato la nomina di 5 dei 20 superdirettori scelti con un concorso internazionale. Per il TAR il bando non poteva ammettere la partecipazione di cittadini stranieri, ma ad essere contestate perché giudicate non trasparenti sono anche le prove orali che si erano svolte a porte chiuse. Le nomine annullate riguardano 4 direttori italiani e uno straniero che erano alla guida del Palazzo Ducale di Mantova, delle Gallerie Estensi di Modena e dei Musei Archeologici di Napoli, Reggio Calabria e Taranto. Amareggiato, il ministro dei Beni Culturali Franceschini annuncia ricorso al Consiglio di Stato. Detto questo, mi chiedo che figura fa il nostro paese di fronte al resto del mondo. Sui musei abbiamo fatto bene, l'errore è stato non cambiare il TAR, commenta piccato l'ex premier Renzi. La nomina di dirigenti pubblici stranieri è vietata nel nostro ordinamento, replica l'Associazione Nazionale dei Magistrati Amministrativi, secondo la quale se si vogliono aprire le porte all'Europa bisogna cambiare le norme, non i TAR. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E tra poco, come vi dicevo, dovremmo raggiungere qui a Fettonotte il direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze, il tedesco Heike Schmidt. E parliamo anche purtroppo di nuovo dell'inarrestabile violenza contro le donne. Ciro Sorrentino, 38 anni, pregiudicato, l'uomo che oggi ha sparato all'ex convivente Antonietta Di Nunno, 35 anni. La coppia ha 4 figli, è residente a Borghetto Lodigiano, a Lodi, viveva in un appartamento a Milano fino a ieri sera, quando dopo una lite la donna ha deciso di andare dalla madre a Segrate, sempre nell'Interland milanese. Oggi Sorrentino, secondo la ricostruzione degli investigatori, è andato a prendere l'ex convivente a Segrate per un incontro chiarificatore, i famosi famigerati incontri chiarificatori. Insieme hanno fatto un motorino poco più di 100 metri fino a un parcheggio dove l'uomo ha estratto la pistola, le ha sparato alla testa e poi ha tentato di suicidarsi. Lei viene data per, ormai si parla di morte cerebrale, lui in gravi condizioni. La politica verso il prima via libera del Parlamento al disegno di legge che abolisce i vitalizi dei parlamentari. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha terminato l'esame di tutti gli emendamenti. Il mandato al relatore sarà votato il prossimo martedì. Il testo prevede che per tutti gli eletti, anche per gli ex parlamentari, l'assegno previdenziale sia calcolato con il sistema contributivo. E poi all'estero, in Brasile, ancora alta tensione a Brasilia, un giorno dopo le violenti proteste antigovernative terminate con una 50 di feriti e numerosi atti vandalici. Poi cerchiamo di capire un po' qual è la situazione e il perché di queste proteste. Di nuovo in Italia, parlando di Laura Biagiotti, che è in fin di vita dopo un arresto cardiaco che l'ha colpita ieri sera nella sua residenza di Guidonia, la stilista che ha 74 anni è stata definita dal New York Times regina del Kashmir, è ricoverata all'ospedale Sant'Andrea di Roma dove sono state avviate le procedure per l'accertamento della condizione di morte cerebrale. Addio Giovanni Bignami, astrofisico e divulgatore, era stato presidente dell'ASI, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, era stato più volte qui ospite a Fettonotte, l'ultima volta solo 3 mesi fa a febbraio, poi sentiremo un ricordo di allora. E per chiudere lo sport con il ciclismo, il Giro d'Italia, nel tappone dolomitico vince lo statunitense Fangarden, la maglia rosa De Moulin consolida quindi il suo primato. Bene, riassunto della giornata, direi completato per quanto riguarda i fatti principali. Voi state già scrivendo sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche WhatsApp ed SMS al 349-238-6666 sulla vicenda dei musei di cui parleremo tra poco. Molti li vedo schierati con il ministro dei beni culturali Franceschini, che dice che è una figuraccia mondiale, poi leggerò qualcuno dei vostri messaggi, mentre per esempio c'è Marco da Roma che scrive: il TAR del Lazio è nel giusto, il bando musei beni culturali è illegittimo per palese violazione delle leggi che prescrivono la cittadinanza italiana per le assunzioni dei dirigenti pubblici, cita articolo 38 di legge 165 del 2001, articolo eccetera eccetera eccetera. Cordiali saluti, Marco da Roma. Io vi saluto cordialmente, ma molto brevemente, c'è solo la viabilità, poi siamo di nuovo insieme. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano con voi. Adesso cominciamo allora ad approfondire uno dei temi, dei tanti di questa sera, con l'ospite che saluterò tra poco, e quello, la polemica che riguarda i musei. Stanno arrivando un sacco di vostri messaggi, non pensavo tutto questo interessamento, mi fa piacere, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. Tra poco vi ricordo le notizie principali, se non avete acceso puntualmente alle 21, ma ricordatevi di essere puntuali, in modo che un giorno non potrete dire: io non lo sapevo, a proposito di una notizia importante. Chiara, per esempio, scrive: da tecnico mette tra parentesi, sono avvocato amministrativista, ho letto le sentenze integrali, sono molto ben motivate quelle del TAR del Lazio che ha annullato queste nomine a direttori di super musei italiani. Dice, la norma c'è e il bando la viola, per cui è illegittimo, il TAR non poteva che dichiararlo. Simone dice, il TAR ha applicato una legge del 2014 molto chiara in proposito, abbiamo dei politici asserviti alle lobby, inadeguati, il ministro finge di cadere dalle nuvole ma sa bene che il tribunale non poteva decidere altrimenti. In Italia i dirigenti della pubblica amministrazione devono essere italiani. Mentre qualcun altro scrive, per esempio Elena dice, sono tornata a casa da poco, leggo questa cosa del TAR incredibile, cercherò di informarmi, ma per una volta sono d'accordo con Franceschini, non ho parole, solo parolacce. Insomma, varie vostre posizioni, diciamo due schieramenti opposti, tra poco ne parleremo con un illustre ospite, intanto vi ricordo le notizie principali. Russia e spese militari, il gelo d'Europa è nato su Trump che dice che appunto ci vogliono più finanziamenti, terrorismo e clima sono la sfida del G7 che inizia a Taormina domani, ma la cittadina siciliana è già molto blindata come avete sentito prima, l'ira di Theresa May, prima ministra britannica, contro gli Stati Uniti per la fuga di notizie sulla strage di Manchester e il TAR del Lazio che annulla le nomine di 5 direttori di musei italiani e bufera. Franceschini dice faremo ricorso. E poi tornano i voucher nella manovra, si torna a parlare di voucher e intanto si va verso la fine dei vitalizi per i parlamentari, c'è almeno stato un primo sì. E poi un pacco bomba che esplode nell'auto dell'ex primo ministro greco Papademos ad Atene, per ora non c'è nessuna rivendicazione, l'ex primo ministro non è in pericolo di vita, la protesta in Italia dei presidi in piazza, rivogliamo la nostra dignità, dicono, manifestano in 3.000 a Trastevere. E poi l'addio di Totti, di Francesco Totti al calcio, che resta un enigma. Quindi la polemica sui musei, come primo argomento. Secondo quanto anticipato dal Sole 24 Ore, il TAR del Lazio, cioè il Tribunale Amministrativo Regionale, ha bocciato la nomina di 5 dei 20 direttori dei super musei italiani, insomma dei più prestigiosi e importanti. Le nomine bloccate sono quelle della Galleria Estense di Modena, del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, del Museo Archeologico Nazionale di Napoli e del Palazzo Ducale di Mantova. Tra questi il direttore straniero bocciato è Peter Asman del Palazzo Ducale di Mantova. Il ministro dei beni culturali Dario Franceschini, lo avete sentito all'inizio, non l'ha presa bene, ha detto non ho parole ed è meglio che io non abbia parole, faremo subito ricorso, ma sentiamo un passaggio. So bene che le sentenze vanno contrastate nelle sedi proprie, giurisdizionali, non vanno commentate, vanno rispettate. Detto questo, mi chiedo che figura fa il nostro paese di fronte al resto del mondo. Naturalmente adesso ci sarà immediatamente l'impugnativa al Consiglio di Stato, l'appello al Consiglio di Stato, la richiesta di sospensiva, vedremo. Ma quello che mi preoccupa di più è che una cosa per cui l'Italia si è fatta apprezzare in tutto il mondo venga messa in discussione. Peraltro ci sono anche delle conseguenze pratiche, perché la sentenza è già pubblicata e quindi da oggi 5 importanti musei sono senza direttore. Vi ricordo che la riforma di Franceschini c'è stata nel 2015, è stata una specie di rivoluzione insomma del sistema dei musei pubblici italiani, per i quali per la prima volta furono nominati 7 direttori stranieri su 20. Ai 7 professionisti presi all'estero furono affidati i musei 3 più importanti, dagli Uffizi a Brera, da Capodimonte alla Galleria Nazionale di Urbino. Di fatto una scelta voluta, nonché annunciata dal governo Renzi, che disse che il bando sarebbe stato pubblicato sull'Economist, sul prestigioso giornale britannico. Adesso tutte le nomine del 2015 quindi sono a rischio, secondo questa sentenza del TAR, sono soprattutto quelle dei 7 stranieri. Allora chiedo al direttore degli Uffizi di Firenze, Heike Schmid, storico dell'arte tedesco di Friburgo, se anche lei è preoccupato, Schmid? Buonasera. Buonasera, sono preoccupato per la riforma anzitutto, per quanto riguarda me personalmente, oggi addirittura ho avuto una telefonata di qualcuno che mi ha offerto un posto di lavoro e nel caso che io dovessi andare via da qui in Italia, tra l'altro quindi potrei rimanere in Italia e senz'altro se questo succedesse io vorrei rimanere in Italia perché è un paese bellissimo che amo molto e quindi però per il momento a quanto si capisce questa sentenza si limita ai 5 musei già citati, quindi non a noi. Senta, ma lei comunque ha capito bene in cosa consiste questa decisione, cioè quali sono state le motivazioni? Il TAR dice, uno, che il bando non doveva prevedere delle candidature di cittadini stranieri, e poi che ci sono stati dei colloqui orali non molto trasparenti perché a porte chiuse. Ma porte chiuse non mi sembra affatto, cioè io ero a Roma proprio a luglio, per caso ero in Inghilterra, sono venuto dall'America per partecipare in un convegno e fare una lezione all'Università di Cambridge, poi ho preso l'aereo per andare a Roma per colloquio per il concorso, e quindi lì c'erano parecchie persone nella stanza, quindi non mi pareva che era proprio a porte chiuse, almeno non avevo l'impressione di questo. C'era certamente la commissione però poi c'erano anche altre persone nell'aula. Ma lei che cosa ne pensa in generale, comunque, al di là di cosa prevede la legge? Che sia giusto che ci sia uno scambio di professionisti da un paese all'altro? Ma senz'altro, cioè, questo è l'aspetto su cui mi posso anche pronunciare, non essendo giurista, nemmeno specialista di questo, non avendo nemmeno avuto l'occasione di leggere proprio la sentenza nello specifico, però sono storico dell'arte, di formazione, e quindi quello che si vede negli altri paesi europei, senz'altro, ma nel mondo, pensando agli Stati Uniti dove ho passato 15 anni, e che naturalmente per questi posti anche dirigenziali spesso sono dei stranieri oppure dei cittadini europei. In Germania ci sono parecchi dirigenti di altri paesi europei, anche italiani, e anche nei musei, per esempio al Museo di Berlino, dove il Dipartimento della pittura barocca viene diretto da Roberto Contini, il figlio del famoso filologo Gianfranco Contini, ma non solo, poi ci sono vari altri musei nel mondo che hanno direttori italiani. C'è Davide Gasparotto al museo, al J. Paul Getty Museum di Los Angeles, un amico con il quale sto preparando una mostra insieme per l'anno prossimo, Uffizi e Getty, e quindi questo è un fatto piuttosto comune per tutto il mondo, e quindi mi sorprenderebbe di apprendere, se veramente fosse così, che in Italia non dovrebbe essere rispettata questa norma europea. Per chiudere, direttore Schmidt, lei è esperto di arte fiorentina, tra le varie cose di fama internazionale, ha pubblicato svariate monografie, molti saggi. Che cos'è che le piace più dell'Italia, visto che ha vissuto anche molto a Firenze? L'arte mi piace anche proprio il modo di vivere, la cucina, cioè proprio tutto insieme. A me piacciono però molto gli italiani, mia moglie è italiana, e mi piacciono molto caratteristiche italiane che effettivamente hanno un grande senso anche quando esportate all'estero, il senso estetico, per esempio, che è questo praticamente innato agli italiani, ma anche la flessibilità, cioè la possibilità di fare in poco tempo, di risolvere in poco tempo delle situazioni che in altri paesi poi porrebbero dei grandi problemi irrisolvibili. Questa è una novità, perché da noi si parla tanto di burocrazia, di cavilli, di cose complicate, insomma, da parte sua mi fa piacere sentirlo. Intanto c'è anche questo. Allora, direttore Heike Schmidt, intanto io la ringrazio molto, le auguro buona continuazione, poi vedremo che direzione prenderà questa vicenda. Grazie intanto. Grazie, buona serata. Buona arrivederci. Intanto continuano moltissimi i vostri messaggi, dice questo ascoltatore Rossano d'Arezzo: con tutte le lauree in beni culturali che si sono inventati i nostri politici, perché danno in gestione il nostro patrimonio a gente straniera? Mentre altri, vediamo sia sulla pagina Facebook, di Effetto Notte, che è al 349-238-6666. Giovanna dice: penso che il fatto che non siano italiani non debba contare, ma giudicare la professionalità del loro lavoro. Pietro scrive: Franceschini si lamenta della sentenza del TAR. Franceschini ha fatto un bando senza conoscere la legge, dice è incompetente. Jacopo invece scrive: c'è un giudice a Berlino, rifacendosi, mi pare, una opera di Brecht, dice: c'è pure nel TAR del Lazio, dove non passa lo straniero. Mauro scrive: il merito deve sempre prevalere rispetto alla nazionalità, al genere, all'orientamento sessuale e all'orientamento religioso. Giulio dice: questa notizia mi fa vergognare del mio paese, ma non siamo in Europa. Insomma, molti messaggi, darò spazio ancora dopo, però nel frattempo c'è qui il collega di Sole 24 Ore, Vittorio Darold. Ciao Vittorio. Ciao, grazie di avermi invitato. Grazie a te, perché parliamo anche di questo attentato che c'è stato in serata in Grecia, ad Atene, un pacco bomba che è esploso nell'auto dove era a bordo l'ex primo ministro greco Papademos. Mi pare, Vittorio, che non ci sia stata nessuna rivendicazione al momento. No, non ancora, anche se la Grecia è stata teatro di numerosi attentati negli anni, diciamo, di piombo, e dalla Grecia sono partite delle buste esplosive che avevano come obiettivo un anno fa la segreteria del ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble e l'ufficio europeo del Fondo Monetario Internazionale a Parigi, dove infatti c'è stato anche un ferito leggero. Quindi potrebbe essere questa una pista, anche se per ora naturalmente non si hanno nessun tipo di rivendicazioni ufficiali. No, assolutamente. Però il quadro di questa situazione nasce da una situazione di estrema tensione sociale per l'ennesimo taglio di tasse sulle pensioni e l'aumento delle tasse, quindi nuova austerità appena varata dal governo Tsipras. Lunedì a Bruxelles c'è stato un eurogruppo molto molto complesso, io l'ho seguito da vicino per tutta la notte, ci sono state 7 ore di discussioni tra i 19 ministri e il rappresentante del Fondo Monetario per trovare finalmente un accordo per dare 7 miliardi, altrimenti a luglio scade dei bond che la Grecia deve versare, deve pagare alla Banca Centrale Europea, e se non ci sono questi soldi naturalmente c'è ancora il rischio di bancarotta. Tutto questo è stato bloccato ancora una volta e rinviato al 15 giugno, l'ennesimo quindi Eurogruppo senza risultato. Questa è una situazione di estrema difficoltà in tutto il paese e naturalmente anche di un'Europa che fa fatica a trovare una soluzione dopo 7 anni di e tre ci piani sono di delle austerità. Colpe, insomma, no? Al di là di questo attacco, però diciamo la Grecia da tempo soffre le pene dell'inferno da questo punto di vista, no? La povertà, la situazione, il grave disagio sociale, e l'Europa ancora non è capace di trovare una via d'uscita. Sì, esattamente, questa la incapacità. Nel momento in cui vai a Bruxelles e entri in questo mondo dei euroburocrati che naturalmente cercano delle soluzioni difficili, perché l'Europa è fatta di compromessi, quindi devi mettere d'accordo 19 ministri più il Fondo Monetario Internazionale, che a sua volta naturalmente rappresenta altri paesi. Quindi è tutto un lavorio diplomatico che non tiene conto però delle reali situazioni sul terreno, cioè della gente che nel frattempo gli hai tagliato del 25% ulteriormente la pensione, gli hai ridotto. Che non hanno il lavoro, cioè non hanno il lavoro, c'è una disoccupazione del 27%, ci sono disoccupazione del 60% sui giovani, quindi c'è una generazione che è perduta, una generazione perduta. Ho letto uno di questi paper che si fanno prima di entrare in questi Eurogruppo, che come sapete non c'è nessuna trasparenza perché l'Eurogruppo non ha una segreteria che poi dice che cosa c'è stato detto, proprio per lasciare liberi i ministri di poter dire esattamente quello che pensano, però appunto nessuno sa poi esattamente quello che è avvenuto. C'è un paper del Fondo Salva Stati che dice che se per 20 anni ci sarà un 3% di surplus, cioè di un avanzo primario della Grecia, non ci sarà bisogno di un taglio del debito. Ma nel frattempo, in 20 anni, con un 3% del PIL, senza avere naturalmente i pozzi di petrolio, perché la Grecia non ha pozzi di petrolio, una generazione è completamente destinata a essere. Questa è un po' la situazione in cui, in questo clima, nascono anche naturalmente, non per giustificare ovviamente, ma è un clima di tensione sociale molto forte dove possono succedere purtroppo anche queste cose. Grazie Vittorio Darold. Grazie a voi. Ciao Vittorio, buona serata. Noi ci prendiamo questa pausa, voi continuate con i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. Torniamo proprio a breve con gli altri temi. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto e anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Allora abbiamo parlato di Grecia poco fa, di questo attentato che c'è stato e che ha ferito, per fortuna non è in fin di vita, l'ex primo ministro Papademos, ex primo ministro greco, e poi lungamente invece della polemica che riguarda i musei italiani, questa sentenza del TAR del Lazio che ha annullato le nomine di 5 direttori di supermusei italiani, tra i motivi anche per il fatto che 2 di questi sono stranieri e secondo il TAR del Lazio il bando non doveva prevedere per le nomine di questi direttori in questi ruoli la candidatura di stranieri, e poi ritiene che alcuni colloqui, alcuni esami orali, quindi dei colloqui, siano stati fatti in modo non trasparente ma a porte chiuse. Ed è stato ospite qui a Effetto Notte il direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze, Heike Schmidt, che insomma ha detto che per il momento spera di non sentirsi a rischio e ha parlato del suo amore per l'Italia. Intanto molti vostri messaggi su questo argomento al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio, dice questo ascoltatore, scrive: non può dire Franceschini che la brutta figura la fa l'Italia, la brutta figura l'ha fatta lui e il suo governo, invece scarica il barile a carico degli italiani. Mentre un altro ascoltatore che scrive, dice, da Firenze, così si firma, chiede che gli italiani assunti nelle istituzioni europee vengano licenziati, e sono tanti, come ripiccano. Domenico poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, dice: un paese in cui un tribunale amministrativo regionale, cioè il TAR, fa legislazione più del potere esecutivo è un paese destinato a farsi governare da entità esterne. Una domanda: chi sono i giudici del TAR del Lazio e come vengono nominati? E così via. Molti altri messaggi, altri poi ad altri darò spazio man mano qui Effetto Notte, sono molti, però adesso dobbiamo cambiare argomento tra pochissimo. Intanto, se non avete acceso puntualmente, queste sono le notizie principali di oggi. Strage di Manchester, l'ira della prima ministra britannica May verso gli Stati Uniti per la fuga di notizie, e si apprende che il kamikaze prima dell'attentato aveva telefonato alla madre chiedendole di perdonarlo. Grecia, esplosione in auto ad Atene, grave l'ex primo ministro Papademos, al momento nessuna rivendicazione. Taormina, domani al via il G7, approntate imponenti misure di sicurezza. Musei, il TAR del Lazio annulla 5 nomine, no ai direttori stranieri, il ministro Franceschini commenta: una figuraccia davanti al mondo. Effetto Notte, avete sentito appunto ospite Heike Schmidt, direttore tedesco degli Uffizi. L'inarrestabile violenza contro le donne, nel milanese un uomo per strada spara alla testa dell'ex convivente e poi tenta il suicidio, gravissimi entrambi. Moda, Laura Biagiotti in fin di vita dopo un arresto cardiaco, ricoverata a Roma. Addio a Giovanni Bignami, astrofisico e grande divulgatore. Per lo sport, Giro d'Italia, nel tappone dolomitico vince lo statunitense Van Garderen. Quelle che sentite sono così alcuni audio presi dalle violente proteste in Brasile. Il presidente brasiliano Michel Temer ha autorizzato nella notte l'esercito a scendere nelle strade di Brasilia, dove migliaia di persone stanno manifestando per chiederne le dimissioni dopo il suo coinvolgimento in un'inchiesta della Corte Suprema per corruzione. Il presidente respinge le accuse e dice che non ha nessuna intenzione di dimettersi. Ha ritirato, pare da un'ultima notizia che avevo letto poco fa, ha ritirato l'esercito, e comunque si tratta delle proteste più violente a Brasilia di quelle dal 2013. Lo chiedo a Paolo Manzo, giornalista che vive in Brasile da 11 anni, collabora con diverse testate. Paolo, buonasera. Sì, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Quindi, sì, sono le più violente diciamo dal 2013, esattamente, quando all'epoca si infiltrarono i Black Bloc, e dopo prime manifestazioni, dopo che la polizia militare di San Paolo sparò su i giornalisti, i proiettili di gomma grossi come limoni, ci furono un paio di manifestazioni pacifiche molto partecipate, dopodiché ci fu un'infiltrazione di sparuti Black Bloc che fecero disastri, e chiaramente ciò fece scemare da un lato la portata delle manifestazioni dell'epoca, e dall'altro fece fare a Dilma Rousseff la stessa cosa che ha fatto Temer ieri sera, che ha annullato oggi poco dopo mezzogiorno, quindi ha messo in strada l'esercito per 12 ore circa, ecco. Dopo che però il disastro era già stato fatto, dopo che 4 ministeri erano stati incendiati e saccheggiati, dopo che insomma ce ne sono stati di ogni, 49 feriti, uno ancora diciamo che respira col respiratore ma non sta correndo il rischio di morire, 6 di questi almeno, forse 10, sono poliziotti militari, solitamente impreparati ad affrontare questo tipo di crisi, e 8 sono stati gli arresti. Questo è il bilancio della nottata, della serata di ieri, che ha messo a ferro e fuoco la capitale del Brasile. Senti Paolo, comunque aumentano nel frattempo, appunto, rispetto a tutta la situazione che tu hai descritto, i timori che il Brasile possa vedere cadere il proprio presidente per la seconda volta, anzi è caduta la linea direttamente, quindi ancora non è caduto il presidente, è caduta la linea con Paolo Manzo, ma tra poco ci ricolleghiamo. Intanto continuano ad arrivare i vostri messaggi sulla questione dei musei. Franco dice: spiegatemi bene, i direttori sospesi sono tutti o quasi italiani, la questione degli stranieri è solo accennata nella sentenza ma non ha portato a sospensioni. Sì, invece al direttore del Palazzo Ducale di Mantova, Franco, dice: gli illeciti osservati sono altri o no? Sì, di questa poca trasparenza, poi vedremo, Franceschini ha annunciato ricorso, vedremo un po' come va. C'è Paolo Manzo di nuovo? Sì, sono di nuovo qua, è caduta la linea, succede, ecco, purtroppo. Mentre io stavo dicendo che c'è il timore che possa cadere invece per la seconda volta il presidente del Brasile dopo Dilma Rousseff, no? Sono passati meno di un anno. Io non userei l'aggettivo timore, il sostantivo timore. Li abbiamo detti tutti, l'analisi grammaticale latita. Diciamo che non userei la parola timore, ma userei quasi il desiderio, nel senso che i mercati sicuramente vorrebbero che questa crisi si risolvesse in tempi brevi. Dopo il crollo logico di giovedì c'è stata una ripresa di giovedì scorso, perché ricordiamo che tutto nasce da uno scandalo dove il più grosso produttore di carne al mondo, Gisele Battista, col fratello Wesley, è diventato, a insaputa di Temer, collaboratore di giustizia, era stato microfonato dalla Polizia Federale, l'unica serie in Brasile, e aveva dato una valigia piena con 500.000 reais, e anch'essa microfonata, a un deputato, primo collaboratore di Temer, che stava agendo in quel momento per nome di Temer, una tangente in totale da 50 milioni di reais, perché tutto nasce da qui, che dovevano servire per chiudere la bocca a Cunha, che è l'ex presidente della Camera, oggi in carcere come tanti altri, e che sa molti segreti del PMDB e di tutti i partiti, perché il problema è molto diffuso, quello della corruzione. JBS, che è questa la più grossa produttrice di carne al mondo, i direttori hanno ammesso, confessato con pezzi d'appoggio di confessione, la corruzione di circa 2.000 politici brasiliani. L'ex presidente Lula, che oggi sta cercando di intessere con gli ex presidenti Sarney e Fernando Henrique Cardoso un'uscita indolore per tutti, ha 6 processi in corso e dovrebbe essere condannato in secondo grado entro fine 2017, per questo che lui e il suo partito chiedono le elezioni anticipate. Insomma, la situazione è molto grave e le uscite non sono facili. L'ultima e forse la più favorevole è data dal Tribunale Elettorale, che il 6 giugno prossimo potrebbe tassare il ticket elettorale di Dilma Rousseff e Michel Temer, e questo toglierebbe un po' i problemi a tutti, perché sicuramente Temer non rinuncia, perché altrimenti rischia il serio pericolo di venire arrestato. Sicuramente l'impeachment non andrà avanti come è andato con Dilma, perché comunque ci vogliono i 2/3 favorevoli all'impeachment, che erano contro Dilma, perché Dilma non aveva contro i 2/3, mentre Temer non ce li ha ancora, per un motivo semplice: l'80% dei parlamentari sono indagati per corruzione, concussione, uno addirittura per omicidio. Messi male in Brasile. Molto male, e non si vedono volti nuovi, per cui se entra la decisione del Tribunale Elettorale il 6 di giugno, che succede? Si va per Costituzione, il Presidente della Camera, anche requisito, ha però 30 giorni per fare un'elezione interna al Parlamento, e si sceglie il Presidente di transizione per traghettare, per così dire, il Brasile fino alle elezioni costituzionalmente previste per fine 2018. Grazie Paolo Manzo. Prego. Grazie Paolo, buona serata a te, intanto viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo in pochi secondi. Roberta Giordano sempre con voi. La strage di Manchester, c'è l'ira della prima ministra britannica May per la fuga di notizie dovuta agli Stati Uniti, ai media statunitensi. Si apprende che il kamikaze prima dell'attentato aveva telefonato alla madre chiedendo perdono e che sarebbe stato preparato in Siria. Grecia, esplosione in auto ad Atene, grave il primo ministro, l'ex primo ministro Papademos, al momento non c'è nessuna rivendicazione. A Taormina domani parte il G7, sono state approntate imponenti misure di sicurezza. La polemica sui musei, il TAR del Lazio annulla 5 nomine, no ai direttori stranieri, il ministro Franceschini commenta una figuraccia davanti al mondo. E poi l'inarrestabile violenza contro le donne, nel milanese un uomo per strada spara alla testa dell'ex convivente e poi tenta il suicidio, gravissimi entrambi. Moda, Laura Biagiotti in fin di vita, ne parleremo tra pochissimo, e poi addio Giovanni Bignami, astrofisico e grande divulgatore. E di Laura Biagiotti parliamo con Giulia Crivelli, la nostra Giulia Crivelli del Sole 24 Ore. Ciao Giulia. Ciao, buonasera Roberta e buonasera a tutti. Ricordo che dopo un malore è in condizioni gravissime Laura Biagiotti all'ospedale Sant'Andrea di Roma, dopo un arresto cardiaco che l'ha colpita ieri sera nella sua residenza di Guidonia. Ha 74 anni, è stata definita da New York Times regina del Kashmir, ha avuto nella sua lunghissima carriera di 50 anni tantissimi riconoscimenti. Giulia, tra l'altro, lei è una grande promotrice anche della cultura, no? Sì, è difficile, certo, tutti la conosciamo come stilista, però è difficile elencare tutte le sue passioni, perché è una collezionista, mecenate, insieme al marito amatissimo, scomparso nel 1996, quando era ancora abbastanza giovane, insomma, prematuramente. Aveva dato vita alla fondazione appunto Biagiotti Cigna, che era il cognome del marito, e hanno una collezione di dipinti futuristi bellissimi che spesso vengono prestati ai musei di tutto il mondo. È una donna che avrebbe potuto, cioè che potrebbe, usiamo ancora il condizionale presente, potrebbe sbandierare moltissimi meriti e riconoscimenti, invece è una regina anche dell'understatement, insomma è stata la prima a sfilare in Cina nell'88, la prima a sfilare nell'ex sede del PQS al Cremlino. E potremmo andare avanti così. Sono 20 anni che sfila in un teatro, il piccolo teatro, nessun altro l'aveva fatto prima, quindi davvero una futurista, ecco, nel miglior senso del termine. È una delle poche donne stiliste, no? Nel panorama mondiale, anche italiano, no? Sì, soprattutto di quella generazione, perché appunto il 4 agosto, io spero ancora, compierà 75 anni, quindi davvero di un'altra epoca. Ma la sua prima azienda la fondò a 22 anni, nel 1900, insomma all'inizio degli anni 60, quindi davvero. E tutto questo, devo dirti, l'ha trasmessa alla figlia, Lavinia Biagiotti, che veramente la sto pensando in questi momenti, che è nata nel 1978, è molto giovane, era già cominciato il passaggio di testimone, e credo che tante qualità della mamma le abbia anche lei, poi naturalmente ha la sua personalità con i suoi gusti e il suo stile, però una grande eredità, quindi. Sì, grandissima. Grazie Giulia Crivelli. Grazie a te, buonanotte. Ciao Giulia, a tutti. Buonanotte. Ciao. E adesso questo ricordo di Giovanni Bignami, che se n'è andato a 73 anni, colto da un malore a Madrid. Era presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e soprattutto un grande divulgatore, con quel misto di competenze, di humor, di grande simpatia che lo rendeva speciale. È stato diverse volte ospite qui a Effetto Notte, l'ultima volta quando la NASA aveva sbandierato questa scoperta di 7 pianeti molto simili alla Terra. È stato il 22 febbraio scorso. Sentiamo quella mia chiacchierata con Bignami. La scoperta è molto bella, una stellina ultra cool, molto fredda, vicino a noi, a una quarantina di anni luce da noi, ha intorno 7 pianeti che girano belli ordinati, tutti precisi, come i nostri 8 del nostro sistema solare. E di questi 3 sono a una distanza tale dalla loro stellina che effettivamente hanno sulla superficie una temperatura, per esempio, compresa tra 0 e 100 gradi, che permette all'acqua di essere liquida, che è la prima condizione per lo sviluppo della vita, almeno come la conosciamo noi. Perciò si chiamano pianeti abitabili, ma bisogna subito aggiungere che abitabile non vuol dire abitato, È chiaro. Quindi valigie non si fanno, è un po' prematuro, ma non è detto neanche che ci sia qualche forma di vita, professore, studierete però questa cosa. Non è detto che ci sia ET, anzi è molto improbabile che ci sia ET o omini sì. verdi, eccetera. Potrebbero esserci delle muffe, dei batteri, degli oggetti monocellulari. Lo scopriremo con la prossima generazione di telescopi che saranno in grado di investigare le atmosfere di questi pianeti, se ce le hanno le atmosfere, perché non lo sappiamo ancora. E guardava sempre al futuro Giovanni Bignami, era un sognatore, sognava già di Marte. Per chiudere ancora i vostri messaggi sulla vicenda dei musei, Paolo dice: se i musei vanno meglio, Franceschini ha ragione, punto. Il TAR dimostra solo quanto lo statalismo regni sovrano in questo Stato italico. Mentre Eleonora da Firenze dice: quanto la sentenza del TAR, si dimentica che esiste una norma che impedisce l'assegnazione di ruolo di dirigente a soggetti non cittadini italiani. Il TAR non poteva omettere l'applicazione, dice: se si vuole si può criticare la norma, non la sentenza che la applica. E con questo direi che abbiamo concluso, ci riaggiorniamo brevemente alle 22.